Maku è una frontiera naturale. Al di là non più nuvole, pioggia, montagne, ma un paese soleggiato, aperto, a tratti fertile, dolcemente ondulato. Finiti i caratteri latini adottati dalla lingua turca, appaiono le eleganti volute dell'alfabeto arabo. Le tazzine di denso caffè sostituiscono i grandi bicchieri di tè nero o verde. Non più buoi e carrette da Maku fino in Cina. Tutta l'Asia centrale risuona di ragli d'asino, spasmodici, strazianti, patetici. Non si incontrano più donne in costume nazionale, né uomini con calzoni a fondo ampio e gambe sottili come stecchini. Non esistono case con mura di pietra, ma soltanto di terra essiccata con tetti di rami intrecciati. Ovunque si notano i segni di un paese povero di legna. Formelle di sterco mescolato a paglia sono messe ad asciugare contro le pareti e le rocce, eccetto che nelle grandi città non esiste né una porta né una finestra per chiudersi in casa. E se qualcuno aspirasse a difendere la propria vita privata, non sarebbe certo capito. E tuttavia, questo è il paese dell'Anderun, la camera riservata alle donne della famiglia. Ma l'ospite appartiene al padrone di casa, i cui congiunti, così come i suoi vicini, hanno il diritto di vedere e toccare tutto quanto appartenga al viaggiatore. Egli impara ben presto ad adeguarsi con buona grazia a simile usanza, sapendo che questa è la sola opportunità per uno straniero di avere un contatto con gli iraniani. Poiché i loro compatrioti più civilizzati di Teheran, nel timore di compromettersi, lo eviteranno esattamente come un russo lo eviterebbe a Mosca o un giapponese in Giappone. In quanto ai gendarmi iraniani, essi potrebbero suscitare sentimenti di simpatia se non mostrassero tanta curiosità per la genealogia dei visitatori. L'acqua dei pozzi è spesso salmastra. Per abituare il proprio organismo a tale dieta è consigliabile iniziare il pasto con una cipolla cruda accompagnata da duk, eccellente bevanda del paese a base di latticello. E le mosche? A migliaia sono sempre pronte a succhiare con un entusiasmo veramente eccessivo. Tuttavia, superati questi piccoli inconvenienti, l'Iran è disponibile per chi lo desideri. Girando e rigirando tra colline e tondeggianti, la strada ci condusse sulla sponda di un corso d'acqua che bisognava attraversare. Avanzammo con un certo nervosismo. Dinanzi a noi scorreva un liquido opaco, color sanguigno, di cui non era possibile indovinare la profondità. In lontananza, il pianoro si delineava in ondulazioni ocra e violacee. Lasciammo dietro di noi una regione i cui villaggi in terra rossa evocavano quelli del remoto Atlante. A Khoi il gendarme mi scambiò per la signora in possesso del passaporto diplomatico, rivolgendosi a Cristina come se fosse il mio autista. La verdeggiante Maran era ancora più bella di quanto mi ricordassi. Con le sue case bianche e i giovani pioppi vibranti come argente e betulle, rassomigliava a un paese ucraino. Si dice che là si trovi la tomba della sposa di Noè. Non cercammo di visitarla, riflettemmo però su quanti miti fossero nati in questa parte del mondo e sul fatto che la provincia dell'Azerbaigian, dove ora eravamo, sembra essere altrettanto usurata dell'Armenia. Ne differiscono unicamente le colline, che basse e come spossate sono gioiosamente invecchiate. Avevamo ammirato il grandioso Ararat. Sul versante nord, nel convento di Ekmiyazin, si conserva un pezzo di legno proveniente, così si afferma, dall'arca. Dicono anche che Noè sia seppellito nelle vicinanze a Naxivan, la città più vecchia del mondo. Ma la celebrità di questa montagna è contestata dai musulmani e si sostengono che la barca di Noè fu trasportata dal diluvio sul monte Judi, in Iraq, dove i dervisci continuano ad alimentare il fuoco di una lampada accesa allora. Secondo la tradizione, l'arca si arenò su un altopiano vicino a Karbala e non sulla montagna che porta questo nome, chiamata erroneamente Ararat dagli armeni. Jezira Ben Omar è un'isola sul Tigri, ai piedi del monte Ararat, e distante 4 miglia dal luogo in cui l'arca di Noè si fermò. Omar Ben Al-Karab la fece portare via dalla cima di queste due montagne e ordinò che se ne costruisse una moschea. Per quanto riguarda Zoroastro, uno dei più grandi uomini che percorsero il nostro medesimo cammino, la leggenda dice che nacque in Media, forse non lontano da dove passavamo, e si spinse a predicare la sua dottrina fino a Ghazni, a sud di Kabul. A poca distanza da Marand, Zoroastro, che allora aveva 30 anni, seduto sulla riva di un fiume dell'Azerbaigian, il Vangui Daitya, ebbe una rivelazione da Vohumanah, il buon pensiero, il logos iraniano. Questo fiume, che scorre a nord di Koi, è quell'Arax che avevamo visto più a settentrione in Armenia. Anche il paradiso di Zoroastro, l'Eran Veg, sulla cui montagna sacra Ahura Mazda rispose alle sue domande, era vicino a noi. In quello stesso paradiso il Signore Saggio disse al buon pastore Yima, mio amato Yima, figlio di Vivanhat, sul mondo dei corpi scenderanno presto gli inverni della sventura, portando il freddo duro e distruttore e neve a grossi fiocchi che coprirà le montagne più alte, con lo spessore di una Aredvi. Al fine di ripopolare la terra con i germi migliori di tutto ciò che vive, il buon Yima ricevette l'ordine di costruire una residenza sotterranea, il Var di Yima, dove tutti gli esemplari viventi sarebbero vissuti fino a che le porte del Var si fossero aperte per ripopolare la terra. Non vi sarà colà nessuno che sia difforme sul davanti o sul di dietro, né impotente, né fuorviante, né rancoroso, né geloso, né uomini con denti malfatti, né lebbrosi da isolare, e del pari nessuno porterà i segni impressi da Angra Mainyu sul corpo dei mortali. Dicono che Yima seguì le istruzioni impartitegli, tuttavia, constatando la perversità del nostro mondo, mi domando che cosa mai sia successo. Il creatore fu ingannato. Yima commise uno sbaglio. Forse per troppa gentilezza il buon Yima lasciò entrare nel Var il suo migliore amico e costui, afflitto da un dente guasto, si ingelosì di lui, di modo che il male attecchì nuovamente. L'ultimo tentativo di creare un paradiso fu compiuto sul fianco del monte Elburz, che fra breve apparirà dinanzi a noi. Era l'undicesimo secolo. Un amico del celebre poeta Omar Khayyam, il sapiente dottore sciita Al-Hasan ibn al-Sabah, capo degli Ismailiti, si impadronì del castello di Alamut che apparteneva allo scià selgiukide Malik Jelaleddin. Hasan, chiamato il vecchio della montagna, fu il primo gran maestro di questa setta di missionari. I suoi devoti, gli assassini o Ashishin, nel senso di dediti allo Ashish, ebbero ad Alamut visioni paradisiache. Il loro giardino dell'Eden fu distrutto durante il secolo successivo da Hulagu, l'Ilkhan mongolo. Il terzo gran maestro, Al-Kabir B., Akamallah Hasan, salì pubblicamente al trono nel 1164 e proclamò la grande risurrezione. Ai propri discepoli egli prescrisse esercizi spirituali in cui l'importanza della Shariat era di molto ridotta, come si addice a chi è salvo e ha avuto accesso al paradiso dello spirito. Tale stato paradisiaco ottenuto dai fedeli fu quasi certamente alla base della famosa leggenda che descrive il giardino creato dal Al-Hasan ibn al-Sabah tra le aride rocce di Alamut per imitare il paradiso e ingannare così i suoi seguaci. Al-Kabir era della stirpe dei Nizar. Da lui, come dall'ottavo gran maestro Rukn al-Din Kursah, discende l'attuale Aga Khan, il quale è per tal motivo il rappresentante legittimo di Ismail, il settimo e ultimo imam rivelato. Nella setta dei sette imam è detto che a partire da quel momento l'incarico di imam sarebbe spettato a un imam non rivelato, che discenderebbe da lì attraverso Ismail. Dalla vetta dell'Arg si offrì al nostro sguardo l'ammirevole vista su Tabriz, grande distesa di case dai tetti piatti tra giardini verde cupo, circondata da una gialla pianura desertica. L'orizzonte era attraversato da dolci colline come striate di un rosa che al crepuscolo scuriva in cremisi intenso. A riguardo della grande e nobile città di Tabriz, chiamata anche Toris, Marco Polo scrisse: gli uomini di Toris vivono di mercanzia e di arti, cioè di lavorare drappi a seta e a oro, ed è luogo sì buono che d'India e di Baudak e di Mosul e di Cremo vi vengono gli mercanti e di molti altri luoghi, e gli mercanti latini vanno quivi per le mercatanzie istrane che vengono da lunghe parti e molto vi guadagnano. Quivi si trova Molte pietre preziose. Gli uomini sono di piccolo affare e avidi di molte maniere di genti. Quivi, Ae, Ermini e Nestorini e Jacopini, Giorgiani e Persiani, e di quegli va che adorano Malcometto, cioè lo popolo della terra, che si chiamano Tauri Zinze. Gli Saracini di Toris sono molto malvagi e disleali. Questo è tratto dal libro di Marco Polo detto Il Milione. Di quei musulmani si dice anche che, secondo la loro dottrina, se rubavano o saccheggiavano i beni di chi professava una fede diversa, non commettevano un crimine, mentre chi fra loro era ferito o ucciso dai cristiani era considerato un martire. Per tale motivo il governo allora in carica doveva costringerli ad altri costumi, altrimenti essi avrebbero commesso numerosi oltraggi. Gli abitanti di Tabriz riuscirono a convertire alla propria fede una buona parte dei tartari, che si ritennero così liberi di consumare delitti. Il veneziano aggiunge che vi sono 12 giorni di viaggio dalla città persiana di Tabriz. Arg, o cittadella, è una denominazione che non corrisponde esattamente alla grande muraglia sulla cui sommità ci troviamo. Edificata all'inizio del XIV secolo per ordine di Ghazan Khan, è quanto resta della moschea Ali Shah, che pare avesse una delle più alte volte mai esistite. I mattoni sono di una qualità tale che al tempo della rivolta del 1933 il fuoco delle mitragliatrici non riuscì a frantumarli. Il muro su cui eravamo salite, spesso 7 metri e alto circa 35, mi affascinava. I mattoni erano sovrapposti in modo da dare alla grande torre un movimento a spirale che procurava una sorta di stordimento. Le dense ombre create dallo spazio tra un mattone e l'altro tracciavano un motivo simile al rovescio di un lavoro a maglia. Sotto di noi, all'estremità del grande cortile aperto, laddove il mihrab arcuato indicava la direzione sacra della Mecca, troneggiava la cabina non infiammabile di un proiettore cinematografico, nuovo dio dispensatore di oblio alla nostra civiltà massificata. Dal nostro trespolo potevamo vedere altresì la chiesa della missione lazarista, frequentata da un ristretto numero di fedeli. In Iran non vi sono più di 25.000 cristiani, in gran parte convertiti dalla fede armena o assiro-nestoriana. Il padre superiore, un francese, ci parlò dei progressi compiuti in Iran. Un tempo, quando un prete si accingeva a uscire dalla città, per precauzione infilava nella cintura 2 o 3 pistole. Gli manifestammo il nostro stupore per il fatto che la Francia non avesse un solo ministro nella sua ambasciata a Teheran, quando ci sembrava tanto importante controbilanciare l'influenza acquisita dai tedeschi. Vi dirò, ci confidò, è già stato nominato un ministro, ma gli iraniani lo rifiutano perché pensano che porti sfortuna. Il re Nadir fu assassinato durante la sua permanenza in Afghanistan e il Rastafari fu detronizzato mentre era in servizio in Abissinia. Inoltre lo Shah, assai suscettibile come tutti i nuovi potenti, ritiene offensivo che il suo regno non sia giudicato degno di un ministro che abbia già svolto incarichi nelle grandi capitali. Alla fine quel ministro venne in effetti a Teheran e ancora una volta il sovrano del paese incorse in un triste destino. Reza Shah Pahlavi fu destituito e poi esiliato e morì a Johannesburg nel luglio del 1944. Preconcetti di tal sorta avevano già causato numerosi incidenti. Per lungo tempo gli americani residenti in Iran videro confiscati per rappresaglie i propri giornali, poiché era stato commesso a Washington un crimine di lesa maestà. Un diplomatico iraniano era stato messo inavvertitamente in prigione per eccesso di velocità. Anche Parigi si era macchiata di un'analoga colpa. Un giornaletto aveva pubblicato una frase irrispettosa. Ma lo scherzo ebbe tali e tante ripercussioni che al Quai d'Orsay si tremava al pensiero dei probabili commenti sulla stampa dell'indomani, tanto che il mio redattore capo di Rue d'Enghien mi fece promettere di inviare per tempo i miei articoli ai funzionari del Quai d'Orsay perché li controllassero. Tuttavia, malgrado il mio impegno a essere il più cauta possibile, questi non passarono la censura. Avevo, ben inteso, evitato di incorrere nel classico errore di scrivere che se in Iran non esistevano più donne velate, vi era per fortuna ancora qualche cammello. Un'immagine nelle mie intenzioni positiva fu considerata a doppio taglio. Gli autisti di camion, eroi dell'Iran moderno, lavorano 16 ore al giorno, non perdono tempo per il pasto di mezzogiorno. Durante la sosta sotto il torrido sole si passano la pipa di oppio che dà loro la calma necessaria per sopportare gli infiniti scossoni causati da quelle strade infernali, trasformate in lamiera ondulata dai sobbalzi dei camion sovraccarichi. Come osavo parlare di oppio riferendomi al regno progressista degli odierni arii? La xenofobia dello scià era così forte da fargli abolire tutte le scritte o cartelloni pubblicitari con caratteri latini o cirillici. Per tal motivo gli abitanti della cosmopolita Tabriz avevano ideato dei manifesti illustrati e senza nessun testo. Una mascella ben disegnata, per esempio, indicava un gabinetto dentistico. Nondimeno lo scià non poteva impedire che in città si parlassero più lingue straniere. Quella mattina non ero forse stata svegliata da un russo che reclamava in russo il suo bagno? Tabriz era la capitale degli Ilkhan mongoli quando i tre Polovi arrivarono con Khogatun, la principessa mongola. Nel frattempo, Argun Khan, lo sposo a cui era destinata, era morto. La preziosa fanciulla fu allora consegnata al giovane Ghazan Khan, che guerreggiava nel Khorasan e che salì al trono 2 anni dopo. La famosa moschea blu di Tabriz fu costruita nel XV secolo da Shah Gahan della dinastia turcomanna dei Montoni Neri. Le sue mura, costruite in mattoni, furono gravemente danneggiate nel corso di invasioni o da terremoti. Poterla ammirare suscita in me profonde emozioni. Tengo a sottolineare di non essere un'esperta, ma di riferire impressioni di una qualsiasi turista che osserva e mette a confronto particolari visti a Khiva, Bukhara, Samarkanda, Herat e Mashhad. Le pareti di quel grandioso monumento incantano e ammaliano con i loro smalti blu intenso su cui luccicano, come stelle in un cielo notturno, particelle d'oro. Un grande pannello in mattonelle smaltate mi diede quella sensazione particolare di quando si è innamorate e si crede di non aver mai capito fino ad allora lo splendore di un cielo a mezzanotte, allorché le stelle, non una uguale all'altra, sfavillano con tale luminosità da sembrare venirci incontro. Quello straordinario mosaico fa sognare un angolo di cielo dove ogni stella sia un fiore colorato. Il suo smalto blu scuro non ha nulla in comune con il blu di Prussia, in cui si percepisce il freddo componente verde. È una tinta oltremare, compatta e profonda, con una sfumatura di rosso cupo, i cui riflessi baluginano a tratti. E vidi ancora blocchi scolpiti di alabastro con giochi di luce così vicini a quelli della giada che avrei voluto prolungare la mia visita per imprimere in me tutta la loro dolcezza. Strade. Eravamo di pessimo umore. La sera prima avevamo informato l'impiegato di polizia della nostra intenzione di lasciare Tabriz all'alba per approfittare dell'aria fresca del mattino ed egli aveva promesso di portarci per tempo lo Yavas, documento indispensabile per continuare il nostro viaggio. Ma non l'avevamo più visto. Verso le 9 del mattino, assai contrariate, ci recammo all'ufficio di polizia alla ricerca di un capro espiatorio. Alle 11, avendo ormai la collera consumato ogni nostra forza, rimanemmo senza parole quando finalmente arrivò l'addetto e aprì il cassetto dove giaceva il nostro Yavas pronto all'uso. Fino ad allora eravamo state costrette a fermarci sia all'entrata sia all'uscita di ogni centro abitato, anche quando i due posti di polizia erano in vista l'uno dell'altro, in virtù di una legge destinata a contrastare le scorrerie dei banditi. Scusandosi per il ritardo, l'impiegato ci spiegò che con il documento in questione avremmo evitato di mostrare quei misteriosi passaporti a ogni posto di controllo. 5 ore di ritardo. Lasciammo briglia sciolta i nostri 18 cavalli. Scorgo all'ultimo momento un disco bianco attraversato da una striscia, segnale di controllo, e decido di non avvertire Cristina. Ci comporteremo come la baronessina svedese e nessuno potrà raggiungerci. Vana illusione. Due uomini in sidecar ci rincorrono per fermarci. Guardano il nostro Javas e tuttavia ci fanno segno di ritornare al posto di polizia. Poi ripartono pensando di essere seguiti. Accorgendosi però che incuranti dell'avvertimento stiamo proseguendo, ritornano e ci superano di nuovo. Ah, questi idioti sono veramente troppo zelanti. Non hanno visto che abbiamo i documenti necessari? E continuiamo imperterrite. Gridando, bestemmiando, essi ci affiancano e mettono una mano sul volante. Poi Pallida d'ira, Cristina colpisce il braccio che ci ha appena fatto sbandare. Con dei pazzi simili è consigliabile fermarsi. Beh, l'atmosfera non è delle più rassicuranti. Bisogna trovare a ogni costo un mezzo per calmarli. Per fortuna uno dei gendarmi conosce il russo e possiamo interrompere i nostri confusi e rabbiosi balbettii. Ognuno espone le proprie ragioni, la tensione si allenta. Alla fine ci scusiamo reciprocamente e il nostro interlocutore, con la mano sul cuore, dice: Siete le nostre onoratissime ospiti. Era del tutto fuori luogo da parte mia comportarmi come un selvaggio. Quando finalmente sole riprendiamo il cammino, abbiamo la strana impressione di essere ancora seguite da quella voce esasperante. Abituate a ricevere l'aiuto dei camionisti quando dobbiamo cambiare una gomma, anche noi ci fermiamo sempre quando uno di loro sembra essere in panne ai bordi della strada. Un giorno, mentre prestiamo a un autista di che riparare una foratura, ci stupiamo di vedere la sua camera d'aria costellata di rattoppi. Veniamo così a sapere che in Iran gli pneumatici sono introvabili. 2 mesi prima, in occasione del matrimonio del principe ereditario, lo scià aveva dato ordine di requisire tutte le automobili esistenti a Teheran. Esse furono poi puntualmente restituite ai legittimi proprietari, ma erano stati cambiati i copertoni delle ruote con altri usati all'inverosimile. La penuria di caucciù e di veicoli era tale che persino i camion dell'Anglo-Iranian Oil Company, la compagnia regina, sebbene senza corona, del paese, erano talvolta confiscati dagli ufficiali dell'esercito e alleggeriti di tutto quanto serviva a costoro. Di norma questa procedura si interrompeva quando il direttore della AIOC informava lo scià che, poiché il lavoro della compagnia era soggetto a frequenti intralci di tal genere, le percentuali spettanti allo scià sarebbero diminuite in misura proporzionale al danno subito. Durante la sosta di mezzogiorno, le ruote gemellate dei camion venivano coperte per evitare eventuali scoppi a causa del sole e anche noi adottammo questa precauzione. In una confortevole locanda, fornita di tavoli e sedie, ci fu possibile ammirare un'originale collezione di cromoliti. Una serie di re e regine europei, una geisha accanto a un vescovo nell'atto di benedire e per finire uno splendido calendario in cui al centro troneggiavano Kemal Atatürk e Reza Shah attorniati dall'Aga Khan, Gesù, Edison e altri benefattori dell'umanità. Erano tutti convinti che lo scià fosse un grand'uomo. Nondimeno egli non aveva ancora visitato nessun centro industriale europeo, forse temendo di scoprire che le fabbriche da lui costruite non erano così perfette come voleva credere. Durante questa pausa mi fu data la spiegazione di un fatto che mi aveva incuriosita già nel 1937. Gran parte dei pesanti automezzi trascinavano a terra, tra le ruote anteriori, una catena a mo' di evasi di prigione. Si tratta di un accorgimento atto a evitare un accumulo troppo forte di elettricità su quelle macchine le cui superfici levigate subiscono per ore l'attrito del forte vento che tormenta questi altipiani di silice ardente. Senza tale catena, l'uomo che per primo scende dal veicolo carico di elettricità potrebbe riportare una pericolosa commozione cerebrale. Camion spinti al massimo, gementi sotto sconsiderati sovraccarichi di 3 tonnellate, camion mortalmente estenuati dopo 2 anni di utilizzo. Beh, ma perché lamentarsene dato che hanno già fruttato il prezzo di una nuova macchina? Autocarri rombanti giorno e notte fra nubi di polvere, strade percorse per centinaia di leghe prima di incontrare una città o un villaggio. A parer mio è la moltitudine di camion, guidati con estrema rudezza, che rende meccanica la nostra era, scrisse Thomas Edward Lawrence a Robert Graves. Simile affermazione è vera anche per l'Iran. Filande, mulini industriali, fabbriche di sigarette, di sapone, di cemento, cotonifici, raffinerie di zucchero, stazione radio, sono stati tutti costruiti con materiale importato. Trasportato pezzo a pezzo lungo le interminabili strade di questo paese. Ci affiancammo a un camion rovesciato. Sulla strada giacevano ancora 2 o 3 enormi casse marchiate Elevator in russo e in inglese. 2 uomini si riparavano sotto l'ombra del telaio, unica macchia scura nell'immenso chiarore accecante. Erano là ormai da più di 24 ore nell'attesa di una squadra di soccorso. L'autista iraniano si disperava. È colpa mia! Ma cosa potevo fare? Dio l'ha voluto! Il meccanico russo, mentre prendeva una papyrus dalla scatola di camel offertagli da Cristina, replicò: Di quale Dio parli, povero ignorante? Sai bene quanto me che Dio non esiste in nessun luogo se non nella tua testa. Anche le idee, dunque, vengono esportate dalla Russia sovietica. Ritengo che il rapido sviluppo dei trasporti, come ho potuto constatare soprattutto in Turchia, in Iran, in Afghanistan, in Russia, in Manciuria e in Cina, caratterizzi la nostra epoca, in cui ogni nazione paventa vicini troppo potenti. Tale progresso, che speriamo sia utile in futuro a queste genti, anche se proprio nei paesi industrializzati l'umanità pare oltremodo stremata, ha come effetto immediato di consolidare lo Stato e di aumentarne i proventi. Proventi che servono innanzitutto a formare un esercito forte, di entità certo superiore alle esigenze di ordine interno. L'esercito è una necessità perché può accadere che nazioni limitrofe, ben agguerrite, di cui si conoscono già i numerosi sconfinamenti, trovino da un momento all'altro un buon pretesto per una passeggiata di conquista. Timore, timore della guerra. Ecco il cardine, l'impulso fondamentale in tutte le nazioni in via di sviluppo, e non soltanto in queste. Senza petrolio, linfa vitale dei trasporti, da quando le carovane sono in disuso, l'Iran sarebbe una nazione debole. È dunque una fortuna che esistano pozzi di petrolio nel sud, benché essi appartengano a una compagnia inglese che già prima del 1940 pagava allo Shah una somma di 2 milioni e mezzo di sterline all'anno. Il petrolio rappresenta altresì il prodotto di esportazione più importante del paese. Nel periodo antecedente alla guerra, questo significava che, malgrado la presenza allora assai attiva di circa 1.900 tedeschi e la vicinanza della potentissima Russia, era sempre la Gran Bretagna a controllare, prima della guerra, i destini iraniani. In una chaikana, una casa da tè scura e bassa, sorseggiavamo ancora una volta tè bollente nella speranza di dar sollievo alle nostre gole riarse dalla polvere. A un tratto entrarono nel capanno due uomini di corporatura imponente. Esprimendosi in un tedesco dalle inflessioni svizzere, chiesero chi fosse il proprietario dell'auto con targa elvetica, una rarità in Iran. Poco dopo si offrivano di guidarci lungo la strada che portava al cantiere, convinti che il lavoro poteva procedere anche senza di loro. Erano impegnati nella costruzione della strada ferrata da Qazvin a Tabriz. Seduti davanti a un boccale di birra, parlavamo della famosa ferrovia transiraniana che era completata e in funzione già su tutti i suoi 1200 chilometri, dal Golfo Persico al Caspio. Alcuni la consideravano criticamente poco più di un lussuoso capriccio, il quale, costato allo Shah intorno ai 40 milioni di sterline, non contribuiva però ad affrancare il paese dall'influenza economica russa. Una linea inutile, dato che passava a centinaia di chilometri dalle vie commerciali normalmente battute. Ricordai di aver sentito affermare 2 anni prima, da persone ben informate, che a causa delle insormontabili difficoltà tecniche non si sarebbe venuti mai a capo di tale opera. Soltanto un miracolo potrebbe trasformare in realtà un progetto simile, si scriveva già nel 1930. Beh, il miracolo si è prodotto. È doveroso ammetterlo e del pari attribuirne il merito allo Shah. Gli occidentali, come più volte ho osservato, dimostrano una tendenza innata a minimizzare e a svilire ciò che proviene dagli iraniani, e non per la cattiva qualità dei prodotti, ma perché ne detestano l'orgogliosa abitudine di vantarsi di realizzare il meglio di quanto esista al mondo. Tale attitudine tipica degli asiatici è in realtà un'inevitabile reazione alla supponenza con cui l'Occidente impone all'Oriente il proprio progresso meccanico, come se fosse una religione rivelata in grado di risolvere ogni problema. Una mia visita di 2 anni prima ad alcuni ingegneri sul loro posto di lavoro mi aveva dato modo di intuire che cosa significasse in Iran la costruzione di una strada. Sulla via di Kalus, il percorso più rapido tra Teheran e le province a sud del Caspio, era impiantato un grande cantiere a 2.800 metri di altitudine sotto il colle di Kandevan. Quest'opera spettacolare era uno dei maggiori vanti dello scià, poiché la vecchia strada da Katzwin a Pahlavi era pericolosamente vicina alla frontiera russa. Una galleria scavata nel colle non soltanto evitava gli ultimi stretti tornanti della strada, ma permetteva la circolazione invernale, altrimenti impedita da una spessa coltre di neve. Non ho mai visto una sequenza tanto ininterrotta di pendii ripidi e desolati come sul versante sud del Candevan. I tunnel sono indispensabili per proteggersi dagli smottamenti continui del terreno. Il cantiere, benché opportunamente situato in un luogo sopraelevato, era stato in parte spazzato via da una valanga di neve. La macchina dell'ingegnere capo giaceva ancora al fondo dell'orrido burrone, simile dall'alto a un giocattolo arrugginito. Da perfetto autocrate, lo scià aveva deciso dove la galleria doveva incominciare. Vostra Maestà avrebbe la bontà di modificare leggermente la propria scelta, dato che la valanga annuale cade proprio nei pressi? Ho parlato e tanto basta. Non era il caso di insistere. Gli ingegneri si arrovellarono per eludere in qualche modo il pericolo piuttosto che contrastare il re dei re. Per eseguire la volontà di un solo uomo, 600 operai e 34 tecnici europei avevano combattuto la montagna che si difendeva con crolli pericolosi, scisti stratificati, vischiose sfuggenti zolle argillose e infiltrazioni solforose che disgregavano il cemento del tunnel. Era tutto nella norma. Ma erano stati gli uomini a creare ostacoli imprevedibili, esaurendo ogni energia dell'ingegnere. Egli si era confidato con noi a cuore aperto. L'ingegnere che mi aveva preceduto si era sbagliato di 3 metri nel calcolare il livello di entrata e di uscita della galleria, per non parlare del suo bilancio a dir poco fantasioso. Ogni giorno si presentava un nuovo problema. Non era possibile lavorare senza materiale e il materiale naturalmente doveva essere trasportato, ma mancavano i mezzi, poiché l'esercito aveva requisito i 23 camion assegnati alla strada di Kalus. Nel frattempo l'umidità tropicale proveniente dal Caspio intaccava il cemento depositato all'aperto. Tuttavia, dato che lo scià minacciava di vendicarsi su qualcuno con una condanna a morte se la strada non fosse stata ultimata a tempo, non avevamo scelta. Fummo costretti a confiscare una carovana di camion che andava a caricare carbone e per quella volta la situazione fu salva. Il nostro interlocutore soggiunse anche di essere stanco dell'Iran e di non volervi rimanere un solo giorno in più di quanto lo trattenessero gli impegni presi, benché il governo fosse disposto a pagargli subito e in denaro europeo l'intero ammontare di un nuovo contratto. L'ingegnere preferiva la solita via a casa sua piuttosto che firmare per un altro lavoro di 3 anni in Iran. La sera, nello stanzone comune del cantiere, trovai i tecnici intenti a leggere i loro giornali. Un'occhiata alle testate mi evocò la Torre di Babele. Sul tavolo erano sparpagliati la Provence de Namur, il Völkischer Beobachter, la Feuille d'Avis de Neuchâtel, il Politiken, per non parlare dei vari gazzettini cechi e spagnoli dai nomi sconosciuti. Un uomo minuto e pacato, con in mano la Neue Zürcher Zeitung, mi disse, come per scusarsi: «La leggo per sapere chi è morto».